Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Sono 7 minuti dopo le 11. Buona domenica da Federico e Matteo Bussola. Ciao Matteo, benvenuto. Come stai? Bene, oggi ho un po' di tosse a dire la verità, ma a proposito di giusta distanza, non ne ho tenuta a sufficienza dalle mie figlie che mi hanno attaccato la qualunque. Due padri insieme in questo programma di Radio 24 che parla di paternità, ma non solo, parla anche di attualità, seguendo un po', guardando quello che ci succede intorno con gli occhiali dell'essere padri, due padri diversi ma alla fine non così diversi, due padri perfetti e imperfetti, insomma, come sono poi tutti i papà. Ogni settimana un argomento diverso e anche voi potete contribuire con i vostri messaggi 349-238-6666 per i vostri sms e i vostri whatsapp. Oggi parliamo di giusta distanza, la giusta distanza educativa, che è un tema tosto, tema delicato, tema anche intrigante. Esserci, ma come esserci, Matteo? Certo, ma guarda, questo è il tema dei temi, perché trovare quella famosa distanza è la cosa più difficile, proprio perché il limite tra presenza e invadenza a volte è una linea molto sottile, e valicarla senza rendersene conto è un attimo. Ed è difficile anche trovare... capire, no? Il giusto feedback, perché magari ci sei, però vedi poi da un'occhiata di tuo figlio che ci sei troppo, ma ti sta dicendo veramente che ci sei troppo o ti sta provocando? Oppure ti fa pesare il fatto che non sei andato a vederlo a quell'allenamento, ma un attimo dopo scopri che non gli interessava più di tanto che tu ci fossi a quell'allenamento, voleva sì sfidarti. Quindi c'è anche questa cosa che alimenta quello zainetto pieno di sensi di colpa che ci portiamo dietro e non sappiamo mai come smollare, vero? Certo, assolutamente. Allora, tanti ospiti anche oggi, ma partiamo subito con una storia che, insomma, è un punto di vista molto particolare sulla giusta distanza, quando questa distanza coinvolge anche il mondo del lavoro. Una storia che vi introduciamo con questa fiaba. Daisy era un ragazzino vivace, che amava l'oceano e voleva diventare il capitano di una nave. Un bel giorno decise di salpare con il suo amico Joy. «Joy, voglio partire!» disse Daisy. «Voglio portare lo scrigno magico che mi ha regalato mio padre dall'altra parte del mondo!» Poi aggiunse: «Vieni con me, ho bisogno di un compagno che conosca i mari e le correnti!» Joy, senza esitazione, rispose: «Anch'io voglio andare dall'altra parte del mondo, Daisy!» E affrontare questo viaggio insieme a te sarà fantastico. Una fiaba che, insomma, questa settimana ha viaggiato molto in rete, la potete trovare anche nella nostra pagina ufficiale in Facebook. Una fiaba per spiegare ai propri figli un fallimento. Ne parliamo con l'ideatore di tutto ciò. Diamo il benvenuto ad Andrea Visconti. Ciao Andrea. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Ciao Andrea. Allora Andrea, papà di due figli, giusto? Papà di due figli, ma papà anche di una startup. Le startup, si sa, nascono e a volte anche finiscono, falliscono, succede, no? Fa parte della vita. Tu hai scelto di raccontare questo fallimento ai tuoi figli attraverso una favola. Come mai? Per due motivi principalmente. Il primo, volevamo dirla questa cosa, cioè abbiamo fallito ma volevamo comunicarla. E poi perché per una questione educativa nei confronti dei miei figli, quindi volevo, insomma, che educarli al fatto che la sconfitta non è sempre l'ultima parola, cioè che non si può sempre vincere. Mi sembrava bello farlo in questo modo, in un modo che fosse alla loro portata e facile da capire per loro. Poi in realtà volevo dargli, diciamo, una piccola lezione. In realtà la lezione l'hanno data loro a me, perché si sfidano sempre tra di loro. Tipo chi finisce prima di mangiare o chi arriva per primo all'angolo della strada, e quando arrivano dicono, alzano le mani e dicono, urlano sempre vinto, come se, anche se arrivano secondi, no? Come se per loro la cosa importante, cioè per loro la vittoria non è arrivare primi, cioè non è arrivare davanti agli altri, per loro la vittoria è arrivare fino in fondo. Certo. Quindi la lezione l'hanno data loro a me, in realtà. Io sono d'accordissimo con quello che sta dicendo Andrea, ma mi piace in particolar modo questa idea, no, di aver raccontato un fallimento, un naufragio poi nel caso specifico, perché senza paura, no, con un linguaggio alla loro portata, perché alla fine un fallimento vale quasi più di un piazzamento, no? Noi cresciamo imparando dai nostri errori alla fine, comunicare questa cosa, cioè che in un errore si annida un'opportunità, credo che sia una cosa importante. C'era Randy Pausch, se non sbaglio, che diceva che l'esperienza è quella cosa che ci rimane quando le cose non sono andate come volevamo noi. E questo è il senso del racconto di Andrea, secondo me. È questo che abbiamo provato a trasmettere. Andrea, oggi stiamo parlando di giusta distanza, però per un attimo non hai avuto il dubbio, insomma, di essere troppo invadente nel loro mondo con una cosa che alla fine riguardava il tuo mondo, cioè il mondo adulto? Sì, in realtà ho avuto più dubbio che non fregasse niente alle altre persone e che fosse invece più utile ai miei figli. Invece, come ti ho detto prima, la lezione l'hanno data loro a me, mentre nei confronti delle altre persone invece ha funzionato di più di quanto, anzi molto di più di quanto ci aspettassimo, perché non pensavamo davvero di riuscire a colpire ed entrare nel cuore di così tante persone. E questa cosa ovviamente ci ha riempito di gioia. Adesso sono qui in diretta anche sulla nostra pagina Facebook con Alessandro, mio socio. Lo commentavamo prima, cioè non ci aspettavamo nulla di tutto ciò, ma è veramente una cosa bellissima. Ti senti più leggero? Assolutamente sì. È vero, insomma, parlavamo prima dello zainetto, no? che ci portiamo dietro con tutte le nostre pesantezze. E l'ultima domanda, Andrea, hai scelto di farlo attraverso una fiaba, perché ovviamente è il linguaggio che più arriva ai piccoli, che più arriva ai figli. È stato complicato trovare le giuste parole, la giusta trama per rielaborare questa vicenda? Ma scriverla no, ho aperto il computer ed è uscita da sola. Me l'hanno già chiesto anche altri, è stata strana la cosa, non ho dovuto pensarla, cioè, era già nella mia testa, solo ho dovuto tirarla fuori. È stato più complicato poi la parte invece operativa per renderla video, per pubblicarla, ma il testo è stato, ce l'avevo davvero già dentro, perché era una cosa che ci tenevo a dire ai miei figli e anche insomma alle altre persone per quanto riguarda la chiusura di questo ciclo di cui volevamo mettere appunto la parola fine. Andrea, ma le illustrazioni che ho visto in accompagnamento al video le hai sempre fatte tu? No, i disegni li ha fatti un mio amico che si chiama Federico Bellan, che è bravissimo a fare questi disegni, e abbiamo fatto tutto tra di noi. Perfetto. No, fagli i complimenti da parte mia. Va bene, lo faremo. Anzi, adesso, tra l'altro, se per caso arrivasse una casa editrice che ci proponga di portare avanti la cosa, ci piacerebbe o fare un libro sul fallimento oppure fare gli altri capitoli di questa fiaba, perché se lo stanno chiedendo in tanti, e sarebbe bello poterlo portare avanti sempre con questi strumenti di peggio. E via, il fallimento che diventa appunto nuova opportunità, che è poi l'insegnamento che hai voluto dare ai tuoi figli. Un grazie ad Andrea Visconti, vi ricordo, grazie sulla nostra pagina Facebook, e stiamo pubblicando la favola animata in modo che anche voi possiate vederla. Ciao Andrea, noi ci fermiamo un momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Volevi diventare come uno di noi. Ancora i Padri Eterni, la giusta distanza, la giusta misura, il giusto spazio, dove collocarsi in quanto padri rispetto ai nostri figli. Questo è il tema di oggi, esserci, ma esserci quanto? Qual è la giusta dose? Aspettiamo anche i vostri messaggi via SMS oppure, se preferite, via WhatsApp 349-238-6666, il numero. Non è colpa dei bambini, è il titolo del nuovo libro scritto dal psicopedagogista Daniele Novara, è uscito pochi giorni fa, e un capitolo proprio dedicato a questo, alla giusta distanza. E Daniele è qua con noi. Ciao Daniele. Ciao Federico, ciao. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Allora, Daniele, un libro bello, un grido di dolore, un atto d'accusa, ma anche un atto d'amore rispetto a tutto quello che è il sistema educativo, come sono poi i tuoi richiami, no? I libri di Daniele sono una sorta di schiaffo, una sberla, non so quanto educativa, ma sicuramente che ti dà una svegliata. Parli appunto di giusta distanza. Qual è la giusta distanza da avere, da tenere, a cui aspirare nei confronti dei nostri figli? Partiamo dal presupposto che i figli hanno bisogno di genitori educativi e non di genitori amici. Dobbiamo uscire da alcuni miti che si sono creati negli ultimi anni, ma legittimamente, intendiamoci, proprio perché abbiamo voluto uscire, no, dall'equivoco del padre padrone, del genitore dispotico, che ovviamente aveva rovinato la vita a tante generazioni, forse anche alla mia, e però siamo entrati così su un binario che rischia di essere altrettanto equivoco. Siamo sicuri che i figli vogliono i genitori amici? Siamo sicuri che il 17enne abbia come massimo sua aspirazione di confidarsi con i genitori? Siamo sicuri che un bambino di 7-8 anni abbia bisogno della mamma che lo pulisca ancora in bagno? Siamo sicuri che a 5-6 anni, se non 10-11-12, dobbiamo, no, rendere accessibile il nostro lettone coniugale ai figli, perché altrimenti, poverini, hanno avuto un incubo di notte e chissà cosa gli succederà mai se non gli concediamo di venire nel lettone? Ecco, siamo sicuri di tutto questo? O viceversa, tutto questo sta diventando un problema, riducendo la nostra capacità educativa, cioè di essere un punto di riferimento per, sì, i nostri figli, riducendoci magari semplicemente a un momento di divertimento. Ecco, siamo sicuri che i figli vogliono i genitori divertenti? No, eh? Non siamo sicuri di questo. Ci siamo guardati io, ma... Daniele, sì. Senti, una domanda. Nel tuo nuovo libro, no? Non è colpa dei bambini, uscito questa settimana per Burrizzoli, tu metti in campo un tema davvero pesante, no? Cioè, in sostanza, sì, cerco di riassumere brutalmente, tu dici che, sì, forse non sono i nostri figli a essere diventati più fragili, ma forse è proprio, sì, il mondo degli adulti a nascondere i suoi, potremmo dire, diversi fallimenti dietro l'alibi di una medicalizzazione forzata, no? Queste continue diagnosi di iperattività, di deficit dell'attenzione, di autismo, quando una volta si diceva semplicemente magari che un bambino era vivace, che un bambino era un bambino, no? Ti vorrei lanciare una provocazione, ti chiedo, per quella che è la tua esperienza, ti è mai capitato invece di incontrare, visto che queste continue richieste di diagnosi partono proprio dai genitori, no? Ti è mai capitato di incontrare genitori che invece, al contrario, pur di fronte a evidenze conclamate o a patologie anche serie, davvero di autismo, rifiutino questa etichetta, rifiutino un supporto scolastico per paura dello stigma di avere il bambino diverso? Certo. Assolutamente, addirittura nel libro c'è proprio un piccolo paragrafo intitolato In fuga dalle diagnosi. Io questi genitori li aiuto, faccio il possibile attraverso i miei e i nostri studi, che appunto sono studi di sostegno pedagogico ed educativo ai genitori. Faccio proprio il possibile perché si ritorni, o comunque si entri, nel capitolo dell'educazione. Ecco, rischiamo di prendere la strada più impervia, cioè di psichiatrizzare i nostri figli con caterve, no? Un'epidemia di certificazioni sui loro deficit di sviluppo. Ma anche qua faccio un'ennesima domanda ai nostri ascoltatori: ma siamo sicuri che si tratti di malattia neuropsichiatrica e non semplicemente di immaturità? Cervello infantile, adolescenziale è immaturo, siamo sicuri? Magari sarebbe sufficiente dare tempo, magari sarebbe importantissimo recuperare i basilari educativi, ma se un bambino di 3 anni non dorme e dovrebbe dormire diciamo 12 ore in un giorno, ma come facciamo a pensare che poi alla scuola dell'infanzia non abbia dei problemi. Certamente. Matteo, un bambino di 6 anni in prima elementare si passa 3 o 4 ore sui videogiochi, come possiamo immaginare che mantenga concentrazione? Insomma, allora non è meglio fare un passo indietro? Infatti, insomma, quello che dice Daniele è proprio questo, no? Recuperare giusti spazi e giusti tempi. Io sono rimasto alla domanda di prima, però siamo sicuri che insomma, i nostri figli vogliono dei genitori divertenti. Tu dici meno barzellette, meno battute, vero? Dobbiamo essere un po' più distaccati. Ma io trovo che i genitori a volte oggi che incontro, che hanno tutta la mia solidarietà, a volte sono nonni prima del tempo. Lasciamo il divertimento ai nonni e cerchiamo di mantenere la titolarità dell'educazione, che è faticoso, è logico, sì, è difficile. Però cioè, i figli hanno bisogno di quello, anche noi in qualche modo quando avevamo i nostri genitori, cioè, ci dava fastidio che loro facessero resistenza, però in qualche modo è la necessità di un genitore alle prese con i bambini. Cioè, se tu lo togli dal lettone, è chiaro che c'è una frustrazione, ma è una cosa strana, è una frustrazione evolutiva, gli permette di crescere, di procrastinare la soddisfazione sessuale a quando avrà l'età giusta. Non so come dire, certo. È così la crescita, è così. No, ma fare resistenza credo che sia la chiave in maniera sana, no? La resistenza è quella cosa, certo, che c'è anche nella lampadina e serve per illuminare, no? Quindi esatto. mi piace molto come immagine. È molto bella, poi noi che ci siamo poco, magari quando arriviamo e siamo appunto poche ore con i figli, insomma fai fatica a mettere la resistenza al primo posto e cerchi appunto di essere simpatico. Daniele Novara, non è colpa dei bambini, perché la scuola sta rinunciando a educare i nostri figli e come dobbiamo rimediare subito. Grazie Daniele, buon lavoro. Ciao. Grazie Federico, ciao Daniele. Anche ciao, a ciao, voi, ciao, a ciao, presto, ciao. Arrivederci. Ciao, sono Nicola, ho 16 anni e per me i padri dovrebbero appassionarsi alle passioni dei propri figli un po' di più. Per esempio, io ascolto un determinato genere di musica e ecco, mi piacerebbe che mio padre provasse insomma ad interessarsene. E quindi io dico, genitori, appassionatevi alle passioni dei figli, perché può essere stimolante sia per voi che per vostro figlio. È il momento del consiglio che i ragazzi ci danno a noi genitori. Hai sentito cosa ha detto Nick? Ho sentito, ma per una volta non sono d'accordo, faccio resistenza, perché io penso che i padri appassionati delle stesse cose dei figli possano essere anche una dannazione, ahimè, no? Lo vediamo con i padri appassionati di calcio, cosa combinano durante le partite, con i litigi fra loro. Io credo che più che passione sarebbe sufficiente una sana forma di rispetto, no? Per le attitudini dei figli, per i loro gusti, per le loro cose, senza esprimere giudizi. Questo sarebbe ampiamente sufficiente. Grazie Nick, come sempre aspettiamo i vostri messaggi attraverso messaggi vocali, potete farlo via email padreeterni@radio24.it, lo potete fare attraverso la nostra pagina Facebook oppure lo potete fare attraverso il nostro WhatsApp 349-238-6666. Seno, accidenti, non crescerà mai. Marta, dai capelli più rossi del fuoco, San Petronio e gradini d'estate. Ehi Marta, dai capelli più rossi del fuoco, San Petronio. A proposito di Marta, questo è il titolo del nuovo libro di Pierluigi Battista, giornalista editorialista del Corriere della Sera, con una bellissima riflessione sull'essere padre. Ciao Pierluigi, benvenuto a Padri Eterni. Grazie a voi. Pensavo che quella fosse la colonna sonora del mio libro, però non la conoscevo. trovata, hai visto? Meravigliosa, poi mi date le indicazioni. Allora, Pierluigi, un libro che parte da delle domande, no? Domande che tu hai fatto a tua figlia. Leggendolo mi è venuto in mente mio figlio, che insomma mi dice: papà, basta con tutte queste domande. Appunto, in questa puntata che la stiamo dedicando alla giusta distanza educativa, mi chiedevo la domanda dove sta? Cioè, la domanda è il link tra noi e i nostri figli, è uno dei possibili link. Ah, io guarda, la cosa è questa. Intanto mia figlia ha 25 anni, io ho descritto una figura che in qualche modo è stata già compiuta, ecco. Mm-hmm. Poi dopo naturalmente la vita la cambierà ancora, però quel processo educativo, di formazione e così via più o meno si è concluso. Io sento, la cosa è nata così, perché sento un grande senso di insofferenza nei confronti di questa corriva condanna del fatto che i nostri figli non sono più come noi, che noi eravamo più belli, più bravi, più studiosi, tutte palle. E invece vorrei più che condannare, cercare di capire proprio attraverso quelle che io chiamo domande, che sono state molto diluite nel tempo in realtà. Certo. E non è che è stata un'unica seduta. E di ricordi anche di cose vissute insieme, così via, per capire di che pasta sono fatti, in che cosa sono tanto diversi, radicalmente diversi da noi, ma non peggiori, diversi, mentre invece la mia generazione, io sono un sessantenne, si è composta al centro della storia, ha inventato addirittura dei termini, post, no? Tutto è diventato post. Perché loro si sentono, noi ci sentiamo, il parametro di ogni cosa, il centro della storia, e quindi tutto quello che avviene dopo di noi diventa post. Cioè viene tutto commisurato su quel che noi consideriamo la nostra normalità. Non so se mi spiego. Sì, sì, un sistema solare invece, dove appunto il sole invece, è questa generazione. Non è che non si interessano più delle cose che hanno appassionato noi, allora vuol dire che è degrado e decadente, si appassionano per altre cose. Io, appunto, come ha detto prima il giovane che ha telefonato, io non è che mi appassiono delle cose loro, ma voglio capire quali sono le loro passioni. Certo. Allora, che cosa leggono, cosa ascoltano, come ascoltano, che film vedono, se vedono i film, che linguaggio usano, che cibo mangiano, che rapporto hanno con la medicina, con la scienza, è tutto cambiato. Pierluigi, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Padri Eterni. Eccoci qua, ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito da dove poter poi scaricare il podcast oppure la nostra pagina ufficiale dove su Facebook, dove troverete tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Con noi Pierluigi Battista, giornalista e autore del libro A proposito di Marta. Sì, no, tra l'altro è molto bella questa cosa del ribaltamento dei ruoli, no? Buongiorno Battista, sono Matteo Bussola. No, perché di solito sono sempre i bambini o i figli a fare domande agli adulti. È bello invece quando un adulto comincia, no, a interrogare i figli, a capire questa verità, che poi non siamo solo noi a educare loro, ma sono anche loro a educare noi, no? E questa idea di interrogare una distanza e poi è il tema della puntata. Ma avevo una domanda. Questa polemica che è scoppiata, no, questa settimana sui millennials, cosiddetti fighetti che non vogliono lavare i piatti, che non vogliono fare esperienza, questa generazione che noi bolliamo con troppa superficialità spesso, no, come priva di ideali, giovani che non leggono, tutte questi luoghi comuni, per quella che è la sua esperienza, è rispondente alla verità? No, per l'appunto un luogo comune o comunque una lamentazione che le generazioni vecchie, in questo caso è la mia, fanno alle generazioni più giovani, cioè sono esattamente le cose che ci dicevano i nostri genitori negli anni 60 e 70, identiche, non cambia nulla. Poi cambiano naturalmente gli strumenti, non c'era internet, però mio padre si arrabbiava moltissimo perché io leggevo i fumetti e per lui i fumetti erano anche Linus, certo. Capito? Cioè non è che, perché comunque lui veniva da una formazione culturale per cui la prevalenza delle immagini sulle parole era un elemento di degrado culturale. Certo. E quindi io racconto di questa cosa che io sull'orma, della condanna che mio padre faceva delle cose che piacevano a me. Una volta, quando ho scoperto, mia figlia mi ha detto: ah, ho visto un film bellissimo, Espiazione. Mm-hmm. Io subito mi sono messo alla ricerca del libro di McEwan, no, Cristina, almeno leggi qualcosa. Se ti è piaciuto il film, forse ti sarà piaciuto questo romanzo. Glielo compro con una dedica tutta affettuosa, tutta appunto un po' paternalistica, però appunto, guarda che questo grande scrittore. Così lei tira fuori dallo zaino una copia di Espiazione che aveva già comprato, addirittura con le orecchie alle pagine, delle pagine che gli erano piaciute di più. Cioè lei leggeva, e io non solo non me ne ero accorto, ma facevo parte del coro conformista. Ah, questi ragazzi non leggono più, tra l'altro lo dicono miei coetanei, dal basso di 4 libri l'anno al massimo, del 50% delle lettori. Quindi che dicono i giovani? No? Cioè sono persone analfabete di ritorno, che non hanno più letto un libro, finita diciamo il corso scolastico, e si permettono di dire che i nostri figli non leggono più. È vero. Ma aprite un libro e leggete voi piuttosto, magari il mio. Per esempio. Per Luigi, l'ultima domanda, mi sto portando avanti ormai in questa puntata, dopo che il pedagogista ha detto che non bisogna essere genitori divertenti, tu sei stato un genitore divertente? Ma io questo, no, ho capito che cosa intende, cioè certo. Complice, troppo amicone, questo è giusto che non lo sia. Però insomma, se uno diverte un po' invece di annoiare le persone, compresi i loro figli, tutto sommato non è male. Grazie davvero Pierluigi, complimenti per l'ottima lettura. A proposito grazie di Marta, voi, ciao, buona domenica. Buona domenica. Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha. Lo prendi papà? Sì. La lepre in tuta rossa, che corse che fa. Prendi papà! Sì, quel canarino si è ferito. Allora, non l'avevamo ancora usata questa canzone, quindi serviva un pretesto. Finalmente ho trovato il pretesto per poter utilizzare la canzone. Matteo, sei contento? Assolutamente, è una delle canzoni preferite delle mie figlie. Allora, da questa settimana assegneremo appunto ogni domenica, ogni puntata, il premio Super Papà. Non va a te come primo, mi dispiace Matteo, lo so che c'era un conflitto di interessi piuttosto palese. Così andremo a cercare nella cronaca, nell'attualità, nelle storie, anche voi insomma ci fate conoscere, ci raccontate, ci mandate quella che è una figura che a nostro giudizio insindacabile, siamo io e te la giuria, quindi Matteo non, insomma, accettiamo le proteste e le critiche, ma a questo giro siamo noi da questa parte del microfono, quindi ci prendiamo l'autorità, l'autorevolezza di decretare il super papà. Ogni settimana ne sceglieremo uno. Ecco, quello di oggi ci piace perché è un super papà proprio dall'origine, direi. Certo. Dal primo vagito. Diamo il benvenuto ad Alberto Migliardi. Ciao Alberto. Buongiorno. Buongiorno Alberto. Ce l'hai già la maglietta da super papà? No, assolutamente. Allora, abbiamo letto la storia di Alberto, la cronaca, credo da un'edizione locale della Stampa, perché sì, sei diventato un padre ostetrico. Siamo a Fontanile, in provincia di Asti, una sì, piccola comunità. E dopo 50 anni, per la prima volta in paese, è nato un bambino, che è tuo figlio, ma questo bambino è nato in un modo molto particolare, vero? Sì, direi molto particolare, era molto atteso e voluto, logicamente, sia da me che da Francesca, mia moglie. Diciamo che inaspettato da come è arrivato, quello sì, ci ha colto un po' di sorpresa, ma diciamo che è stato un lieto evento e è stata un'esperienza meravigliosa. Eh certo, perché insomma quando la cosa è accaduta voi avete chiamato il medico, avete chiamato certo, l'ambulanza. Abbiamo però chiamato l'ambulanza e di per sé tutto è accaduto in casa, nella nostra cucina, Teresa stessa, e mi sono trovato di fronte a mia moglie, logicamente, e in quel momento lì, logicamente, oramai il bambino aveva la testa fuori un po', e abbiamo chiamato il 118 e messo il telefono sul tavolo in viva voce con l'operatore che comunque ci dava dei consigli, e io nel frattempo, mentre che comunque mia moglie stava per avere il figlio, logicamente gli dicevo un po' tutti i passaggi. Comunque diciamo che è stato così veloce, mi creda che comunque è stata un'esperienza bellissima, ripeto, deve essere un'esperienza assolutamente indescrivibile, nel senso che io ricordo banalmente quando è nata la mia prima figlia in sala parto, che non ho naturalmente aiutato, ho semplicemente assistito, e credo che possiamo dire tranquillamente, Federico, che il parto anche per i padri è davvero il primo momento che cambia la vita, perché è proprio il momento in cui letteralmente il figlio appare per la prima volta, e mentre le donne forse sono abituate a quest'idea, no? Portano il figlio dentro di sé, quindi il figlio è letteralmente carne della loro carne, c'è un momento in cui mangia addirittura quello che mangiano loro, noi li vediamo apparire lì per la prima volta come degli alieni, prima non c'erano e adesso ci sono, il nostro rapporto parte proprio da quel primo momento, certo. E avere la possibilità di accogliere direttamente tuo figlio fra le tue braccia deve essere una cosa che io... Beh, intanto, mi scusi se la interrompo, tanto bisogna essere consapevoli di quello che uno fa. Certo. E poi, ripeto, in quell'occasione lì, logicamente, pensieri non ce ne sono tanti, perché si pensa alla famiglia e perché è stata una scelta anche quella, e quindi si va avanti. Tra l'altro, aggiungo una piccola nota critica che non rovinerà naturalmente la meraviglia di questa esperienza. No, diciamo che la questione del parto in casa è stata dovuta anche al fatto che il punto nascita di Nizza, mi diceva il sindaco, è stato chiuso lì vicino. Esatto. No? Quindi avete anche meno, diciamo, disponibilità in questo senso. Questo, diciamo che non solo per noi, ma penso un po' adesso in tutta Italia c'è questo problema, e in effetti Dio vuole che non è successo niente, perché ci fosse stato qualche problema, ahimè, come sarebbe potuto andare. Alberto, complimenti, insomma, papà, super papà della settimana, complimenti a te, complimenti anche a Francesco, grazie. Ovviamente, la mamma, certo. e poi anche al fratellino che avete avuto il tempo di mettere a letto prima di partorire. Alessandro, prima no, addormentato Alessandro, perché appunto doveva nascere, come si chiama? Stefano, ok, doveva nascere Stefano. Sì. Grazie Alberto, buona vita. A lei, buongiorno. Ciao. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Qual è la giusta distanza? Questo è il tema della puntata di oggi di Padri Eterni. Ora portiamo un altro contributo, lo facciamo con uno spettacolo teatrale tratto da un libro che è tratto dalla propria vita. Il libro è Ciao, scritto da Walter Veltroni, e lo spettacolo teatrale in scena fino a questa sera al Quirino di Roma. Diamo il benvenuto a Walter Veltroni. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi. Beh, insomma, questo ciao dice già tanto, secondo me, della distanza educativa che ci deve essere tra un padre e un figlio, perché insomma sono quattro lettere che racchiudono un mondo. Tu hai raccontato la storia di un papà che non hai mai incontrato di fatto nel tuo libro, giusto Walter? Sì, beh, lui è morto quando io avevo un anno, lui aveva 37, quindi no, non ci siamo mai conosciuti, e quindi ho immaginato nel libro e anche nello spettacolo che lui ritorni, diciamo, vestito con i suoi vestiti anni 50, con la sua età, che diciamo ne potrebbe fare mio figlio, che lo trovo sul pianerottolo del mio palazzo, dove lui è al piano di sopra è morto, e che ci raccontiamo le nostre vite, e io soprattutto per la prima volta ascolto la sua storia, e questa è un po' la storia del romanzo. In questa giusta distanza lo hai sentito troppo vicino o troppo lontano tuo papà? Ma guarda, è stata un'assenza per me mio padre, però l'assenza e il vuoto hanno un fascino, e secondo me consentono anche il privilegio di cercare, cioè se tu hai fin dall'inizio della tua vita a che fare con un vuoto, sei più abituato a cercare, sei più abituato a esplorarlo, sei più abituato a andare oltre la superficie delle cose, diciamo così, e io diciamo soprattutto quando poi sono diventato padre ho sentito il bisogno di ritrovarlo, perché poi in fondo prima mia madre, che come tutte le donne era capace di fare qualsiasi cosa per far stare bene i figli, per far crescere una famiglia, aveva svolto una funzione supplente anche al ruolo di mio padre, e poi quando non c'è stata neanche più mia madre, insomma il desiderio di sapere di più di mio padre si è fatto più forte. Ma tra l'altro questo il recupero della memoria attraverso la scrittura, no? Cioè la sua stessa costruzione, poi in questo caso attraverso un incontro immaginario, è un'operazione veramente che personalmente mi commuove e dice molto del potere anche salvifico della scrittura, no? Ma assolutamente io, sì. Io avrei una domanda per Veltroni che spero non suoni irrispettosa, nel senso che è semplicemente un tentativo di capire. Mi chiedevo che cosa accade poi nella vita di un uomo, cioè quale tipo di consapevolezza appare nel momento in cui ci si rende conto che si sta diventando più vecchi del proprio padre. Ma guarda, io lo vivo con grande serenità, diciamo, nel senso che è cominciata un'altra fase della mia vita da tutti i punti di vista, quello del lavoro, dell'impegno e anche quello esistenziale, e, però diciamo, la memoria ti consente di riorganizzare i fili del tuo cammino, no? E se li guardi ti sembra che in fondo non ci siano grandi strappi, che in fondo hai fatto tutto quello che potevi fare per tenerli nell'ordine più razionale possibile, alla fine subentra una sorta di serenità, no? Nel senso che una delle domande che faccio in questo dialogo con mio padre, che c'è sia nel libro che nello spettacolo, è sapere se lui sarebbe stato fiero di me, no? In fondo è una cosa che tutti i figli vogliono sapere dal padre, io non ho avuto mai la possibilità di saperlo, ma insomma mi illudo che possa essere così, ecco. Che bello, grazie Walter, grazie però per essere grazie stato con noi. Grazie a voi, ciao, buona domenica. Grazie. Ciao. Allora, chiudiamo con due segnalazioni di cose da fare insieme, padre e figli, che insomma lo diciamo che è sempre il fare insieme, probabilmente dal punto di vista educativo è davvero la giusta distanza. Intanto uno spettacolo che vi vogliamo consigliare, si intitola Una playlist per gli alieni, la storia del Voyager Golden Record, venerdì 27 ottobre alle ore 21 al Planetario di Milano con due amici di Radio 24, infatti è un radio show dal vivo di K e Drago, è uno show radiofonico dal vivo che racconta la storia del Voyager Golden Record, il disco d'oro lanciato nello spazio dalla NASA nella missione Voyager del 1977. Una burlaman.com per tutte le informazioni, l'officina del Planetario, il Planetario di Milano, protagonisti di questa produzione. E poi invece chiudiamo, abbiamo veramente un paio di minuti, ma torneremo su questo argomento perché ci piace. Papà e figli in azione, è un weekend che si sta tenendo a Modena, c'è con noi Nan Cosemans, se non erro, che è l'ideatore di questo workshop. Ciao Nan, benvenuta ai Padri Eterni. Grazie mille, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa sta succedendo a Modena? Sta succedendo tanto, infatti lo dicevo ieri, ho molto rispetto per i papà di oggi, soprattutto quelli che hanno deciso di venire qua. Abbiamo iniziato ieri con i papà e i figli insieme, perché è proprio il nostro lavoro lavorare con gli adolescenti, e abbiamo visto che i papà italiani, essendo io olandese, la fondatrice di questo progetto qua, si stanno veramente mettendo in moto. Quindi dopo, dove lavorano sulla loro autenticità di essere padre, come comunicare in modo diverso con loro stessi, capire un po' chi sono come uomini e anche nei confronti dei loro figli. Come dicevo, la persona che sentivo prima nella trasmissione parlava proprio dell'esempio e della vita come padre, che è una cosa veramente importante. Mm-hmm. Ma questo che no, appunto, è quello che state facendo lì a Modena con tante attività particolari. Matteo, tu hai mai fatto un corso per diventare un bravo papà? No. Io improvviso esattamente come tutti, ma se ci fossero, credo che potrebbero essere utili. Cioè, Nanna, funzionano i corsi, cioè si apprendono cose, cioè la finalità è proprio quella dell'apprendimento, o è un'esperienza che ti dà qualche elemento in più per capire meglio il tuo ruolo? Sì, sicuramente questo. Il nostro intento con tutto quello che facciamo lavorando con le famiglie e gli adolescenti insieme è di portare più consapevolezza. Quindi un papà per me, il genitore in generale, è già bravo così. Facciamo tutto il nostro meglio. È solo che in passato, per esempio, mio papà mi ha trattato in un certo modo dove non avevi strumenti. E ad oggi ci sono tanti strumenti che puoi imparare in più per comunicare in modo diverso con i tuoi figli per capire di più su te stesso in modo di, come si può dire, rafforzare il tuo ruolo, le tue relazioni insieme a tuo figlio. È quello che stiamo un po' facendo. Quindi i papà che sono qui sono già molto bravi, è più un'esperienza dove vivano, che vivano e possono, noi, come si può dire, parliamo insieme a Kevin che è venuto dall'Olanda proprio su migliorare la comunicazione, come invece di dir di no comunicare in modo diverso con loro, di rafforzare il loro rapporto con il figlio o la figlia. E la cosa più bella, credo, che abbiamo fatto anche ieri sera è proprio un quiz dal figlio al papà, il papà al figlio, per capirsi meglio. Sì. E da lì sono, era piena di lacrime, diciamo così, un bellissimo intervento stato. Genitorinazioni.it per tutte le informazioni. Grazie Nanna e buon lavoro. Grazie a voi, anche a voi, e grazie per quello che fate. Grazie. Buona giornata. Noi chiudiamo un grazie a Giorgio De Luca in assistenza, a Carmelo Lauricella oggi alla parte tecnica, radio24.it è il nostro sito. Abbiamo la lettera, Matteo? Sì, sì, certo. Allora, ok, ciao Matteo, come sempre l'appuntamento è la domenica prossima con i Padri Eterni e come sempre vi salutiamo con una lettera che scegliamo appunto di spedire e inviare a un protagonista dell'attualità della settimana. Lettera aperta al principe William d'Inghilterra. Caro principe William, recentemente in un tweet Kensington Palace ha confermato che il tuo terzo figlio nascerà ad aprile. Quanto deve essere strano dover dar conto al mondo intero di quella che dovrebbe essere una faccenda privata. Nel tuo caso, tuo figlio non è già più solo tuo, così come tu stesso non sei mai stato solo dei tuoi genitori. Tutti ritengono di avere diritto di dire la loro su di voi, di essere informati su ogni cambiamento, di giudicare ogni scelta, perfino ogni abito che indossate. Hai dichiarato di non avere mai desiderato di diventare re. Eppure, è questa la strada che ti si delinea davanti, così come avverrà con il tuo primogenito George. È dura veder già fiorire i meme su di lui, che ha solo 4 anni, leggere che è diventato un'icona gay solo perché indossava una salopette rosa. Immagino che ti piacerebbe metterti davanti a lui come una barriera, nasconderlo, metterlo al riparo della sovraesposizione a cui, inevitabilmente, verrà sottoposto. Ma non puoi, né con lui, né con Charlotte, e nemmeno con quell'esserino nascosto nel ventre di tua moglie di cui già la gente parla. Non c'è modo di allungare la distanza con il tuo popolo. Allora, accetta il consiglio di un estraneo. Accorcia quella con i tuoi figli. Sii un padre presente, alla mano, facile da raggiungere per nascondersi nella sua ombra quando le luci si faranno troppo forti. Non ho idea di come possa essere fare il re, ma come ombrello me la sono sempre cavata alla grande.